Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. È di pochi giorni fa la notizia della consegna ad Amatrice delle prime 25 casette per i terremotati del 24 agosto. Contemporaneamente però in tutta l'area colpita dalla sequenza sismica non sono mai cessate, vanno avanti ancora adesso, le operazioni di verifica degli edifici. L'ispezione dei quali, per capire se sono sicuri dal punto di vista statico, è una delle operazioni che richiede più tempo e comporta anche più rischi per gli operatori. Stasera allora andiamo a Pisa, dove Università e IT, Istituto Italiano di Tecnologia, hanno messo a punto Walkman, un robot su cui lavorano da tempo, pensato per sostituire l'uomo appunto nell'ispezione di edifici pericolanti e più in generale nello svolgere attività in ambienti pericolosi. E Walkman è stato messo alla prova in passato proprio anche ad Amatrice. Per parlarcene c'è uno dei suoi ideatori, che è il professor Antonio Bicchi, professore di robotica all'Università di Pisa, nonché senior scientist dell'IIT. Buonasera Bicchi. Buonasera a tutti. Allora, intanto ci descriva un po' questo robot Walkman, di cui noi in realtà abbiamo parlato un po' di tempo fa quando partecipaste ad una gara del DARPA, una di quelle gare per robot in cui simulavate addirittura una situazione di incidente nucleare. Sì, è un robot umanoide che ha, diciamo, una statura quasi pari a quella umana e capacità di manipolazione, di visione, di sensori che possono aiutare, in questo caso particolare, sostituire in una situazione pericolosa l'uomo. Perfetto, quindi insomma è un robot che ha due braccia, una testa, un torso, no? Due gambe, che però in realtà voi ad Amatrice avete sostituito con qualcos'altro. Ecco, raccontiamo che cosa avete fatto proprio lì ad Amatrice. Ad Amatrice la Protezione Civile ci ha invitato a verificare la possibilità di aiutarli nei compiti di ispezione degli edifici danneggiati. Per fare questo naturalmente ci sono delle normative di sicurezza da seguire, e poter camminare su gambe era considerato ancora troppo pericoloso. Allora abbiamo preso il solo torso con le braccia, la testa e tutta la parte di sensori del robot, l'abbiamo montato su una base su ruote più stabile, e con questo siamo entrati in una casa danneggiata. Il robot è stato comandato come un avatar da una persona, un operatore esterno. Poi vediamo anche come fa a controllarlo e che cosa faceva appunto questo robot entrando. Avete tre obiettivi, no? Che avete messo alla prova lì ad Amatrice. Sì, esattamente. Dunque, il primo era quello di recuperare oggetti eventualmente abbandonati e nella fuga. Il secondo era quello di valutare le condizioni degli edifici e sostituire in questo l'intervento degli ingegneri civili ed edili, i quali potevano vedere le immagini proiettate al di fuori dal robot e valutare remotamente, quindi in sicurezza, quegli aspetti di ingegneria. Ecco, sì, perché questo robot naturalmente restituisce all'operatore ciò che vede, semplicemente ci sono questi, no, occhiali 3D che si indossano oggi anche per capirsi per i videogiochi, insomma il robot restituisce all'operatore la vista, ma poi ha anche dei sensori che riescono a mappare, proprio a ricostruire l'ambiente, a costruire una mappa dell'ambiente dettagliata. È corretto? Esattamente, esattamente. Il robot non dà solo quello che l'uomo vedrebbe, ma dà anche dati quantitativi più accurati. Il robot ha dei sensori che sono basati su laser, che ricostruiscono una mappa 3D dell'ambiente, per cui si può trovare quali sono i danni, qual è l'entità. Cioè si vedono danni, le crepe, quanto sono larghe le crepe, per esatto, capirsi, no? Siamo riusciti a misurare con buona accuratezza la dimensione delle crepe, il parallelismo, l'eventuale imbozzatura dei solai e cose di questo genere. Ecco, dicevamo che questo robot però viene teleoperato, è un avatar, quindi c'è un operatore che, abbiamo detto, intanto ha questo casco, no? In testa. Ha questo casco in testa e ha dei sensori, degli accelerometri e degli strumenti per la misura delle contrazioni muscolari, degli elettrodi, come quelli che utilizziamo nelle elettromiografie, diciamo, sono degli esami medici. Insomma, comunque sostanzialmente come dei guanti speciali che misurano la contrazione dei muscoli in questo caso, ma che servono a controllare le mani del robot, giusto? Esattamente, sì, sono dispositivi indossabili e per niente invasivi. Molto leggeri. Molto leggeri. e il robot esegue i movimenti che l'uomo gli impartisce, ovviamente direziona lo sguardo dove la persona cerca informazioni e muove le mani per recuperare quegli oggetti che devono essere recuperati. Senta, dicevamo che le ispezioni stanno andando avanti ancora adesso, quindi insomma sarebbe molto utile una tecnologia del genere. È uno scenario realistico quello che davvero nei prossimi anni possiamo avere una specie di forza robotica che interviene in situazioni come quella dei terremoti? Sì, è uno scenario realistico, in effetti si sta pensando a qualcosa di questo genere, questo comporterebbe avere qualche decina di robot sul territorio. Ecco, ma il costo di uno di questi robot, non il primo prototipo naturalmente, ma immaginando appunto di produrli almeno a decine? Ma noi stiamo facendo dei progetti in questo senso e pensiamo che potremmo arrivare a produrre robot di questo tipo per qualche centinaio di migliaia di euro, 100-200 mila forse, il che è compatibile con il tipo di investimenti che sono necessari. Va bene, grazie professor Bicchi. Grazie a voi. È tutto, a lunedì.